Sarah and Lorenzo are almost at the end of their meal now, but before we rejoin them, here are some new words and phrases. Ascolti l'italiano, l'inglese, di nuovo l'italiano e poi ripeta. Non abbiamo preso. We didn't take. Non abbiamo preso. Un dolce. A dessert. Un dolce. Un caffè. A coffee. Un caffè. Subito. Immediately. Right away. Subito. Here's that language again. Un dolce. Non abbiamo preso un caffè. Subito. Ed ora ascolti il dialogo.